Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate alle 20.45 in replica. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore online. Si chiama Guardie o Ladri. Allora, la stagione turistica è già iniziata, il grosso del flusso turistico è atteso a breve e quindi, come ogni anno, cominciano incomprensioni ed accesi dibattiti che spesso sfociano in polemiche sul diritti dei bagnanti, sul diritto di accesso alle spiagge, agli arenili, sui canoni che aumentano o non aumentano, ogni anno ci sono proroghe. Insomma, nel momento in cui uno vorrebbe godersi un po' di meritato riposo, non mancano i problemi anche quando si mette il piede in una spiaggia. Ed allora, per cercare di capire, fare un po' il punto della situazione, vedrete che a breve i giornali saranno pieni di paginate sull'argomento, noi abbiamo chiamato un vecchio amico, Paolo Landi, presidente di Adiconsum. Buongiorno Landi. Buongiorno. E Riccardo Borgo, che è presidente del SIB. SIB è un acronimo che sta per Sindacato Italiano Balneari, aderisce a Confcommercio e insomma rappresenta questo sindacato circa 10.000 imprese balneari, quindi una realtà importantissima. Buongiorno Borgo. Buongiorno, buongiorno. Allora, io intanto ricordo subito un'informazione di servizio: se cliccate sul sito www.adiconsum.it troverete anche un rapido vademecum sui diritti dei consumatori nel momento in cui si recano nelle spiagge italiane. E allora chiedo a Landi: quali sono le questioni aperte, quali sono i possibili abusi ai quali, nei confronti dei quali potrebbero ancora andare incontro i nostri radioascoltatori, i cittadini italiani? Sì, io vorrei ricordare che soprattutto i problemi sono due. Un primo problema, che purtroppo ogni anno si manifesta e in alcune realtà anche in modo un po' drammatico, è il diritto all'accesso all'arenile, all'accesso alla spiaggia. Qui io voglio ricordare che il diritto all'accesso alla spiaggia è anche passando attraverso le concessioni e attraverso gli stabilimenti. Gli stabilimenti non possono impedire l'accesso alla spiaggia, non possono chiedere di pagare costi per accedere alla spiaggia. Facciamo un esempio, Landi, così almeno ci facciamo capire dai nostri radioascoltatori. Se io vado in una località e per avere accesso, ecco, alla spiaggia libera ho due possibilità: o passo attraverso uno stabilimento o devo fare qualche chilometro a piedi per trovare il passaggio, come dire, della spiaggia libera. Esattamente, il varco libero, mentre invece io ho il diritto di passare anche attraverso quegli spazi che sono stati dati in concessione alle imprese private. E questo è il primo punto. Secondo diritto importante riguarda il cosiddetto bagnasciuga. Bene. Sul bagnasciuga hanno diritto a passeggiare e a starci tutti. Lo stabilimento balneare sul bagnasciuga non vanta alcun diritto. È evidente che qui occorre il buonsenso, perché se ci sono tante persone nessuno può mettersi l'asciugamano sul bagnasciuga. Se però non ci sono tante persone e quelli dello stabilimento ci mettono l'asciugamano sul bagnasciuga, lo stesso diritto hanno tutti gli altri che non fanno parte, come dire, che non hanno pagato lo stabilimento. Allora facciamo una cosa estremamente importante. Allora, lo stabilimento non vanta alcun diritto rispetto a tutti gli altri cittadini. Benissimo, allora adesso lo faccio, come dire, lo riassumo io con un paradosso. Ci troviamo in una località turistica famosissima, Portofino. Ci innamoriamo del bagnasciuga di uno stabilimento balneare dove passeggiano VIP o supposti VIP. E voglio divertirmi con gli amici a dire: andiamo là dove ci sono i VIP, non posso permettermi il costo dello stabilimento, non posso permettermi nemmeno la giornata, mi diverto a sostare sul bagnasciuga. Posso farlo, giusto Landi? Ecco, io dicevo, qui occorre il buon senso, perché se è chiaro che ci sono tante persone, uno non può, uno può passeggiare ma non può mettersi, certo, non può diventare non c'è nessuno, certo. E altri, come dire, quelli dello stabilimento hanno steso l'asciugamano, lo stesso diritto ce l'hanno anche chi non ha pagato lo stabilimento. Benissimo, non posso ovviamente diventare un animale stanziale, ma no, posso passare gestito con intelligenza, con intelligenza. E allora Borgo, c'è questa intelligenza da parte delle imprese o a volte c'è prevaricazione o un senso di prepotenza quando si è ottenuta una concessione e quindi quel pezzo di spiaggia la si gestisce come meglio si crede? Prego Borgo. Credo che l'intelligenza da parte degli operatori ci sia tutta, ci sia anche la volontà di non creare problemi, di consentire nel limite che la norma prevede che ognuno possa godersi il mare anche senza dover pagare assolutamente nulla. Credo sia difficile rimetterci al buon senso, perché c'è chi ha buon senso e buon senso non ce l'ha, certo. E tra l'altro bisogna essere assolutamente precisi. Per quanto riguarda il diritto di accesso, è sacrosanto quanto diceva Landi, teniamo però conto che la legge impone alla regione di fare i piani degli accessi, cioè le regioni fanno i piani degli accessi. Quando non ci sono accessi pubblici per raggiungere la battigia, lo stabilimento balneare ha il dovere, senza chiedere un euro ma nemmeno 10 centesimi, di consentire il passaggio attraverso i suoi varchi per raggiungere la battigia. Sulla battigia non deve sostare nessuno, né i clienti dello stabilimento balneare né nessun altro. Si può tranquillamente passeggiare avanti e indietro, non si può depositare nulla. Questa è la regola, io credo che occorre farla rispettare in tutti i modi, proprio per evitare che diminuisca anche quell'aspetto di tranquillità per chi opera i nostri bagnini, per chi opera sulla salvaguardia della gente che è in mare, perché lei immagini un tappeto di gente stesa davanti alla postazione di salvataggio del bagnino, se quello deve scendere, spostare oppure mettere in mare un mezzo di salvataggio, se deve fare un zig zag attraverso la gente sdraiata. Sono assolutamente d'accordo con lei, poi torneremo su questi piani delle regioni. Borgo, però vorrei chiederle una cosa, sono già, come dire, uscite sui giornali o apparse sui media televisivi alcune inchieste, prime inchieste o primi servizi sul prezzo della giornata trascorsa tra affitto di ombrelloni, sdraio e varie, come dire, appendici nelle diverse città turistiche d'Italia. I prezzi non sembrerebbero aumentare rispetto allo scorso anno, la crisi c'è per tutti. Io quindi le chiedo un commento su questo, ma lo legherei ad un tormentone, l'ennesimo tormentone che ogni anno si ripropone da alcuni anni a questa parte, quello degli aumenti dei canoni demaniali. Ogni volta ci si arriva in prossimità dell'estate, sembra che stia per arrivare una stangata sulle imprese balneari, poi c'è sempre una proroga. Allora, qual è la situazione allo stato dell'arte? Sull'una cosa, cioè aumento dei servizi per i clienti e aumento o meno dei canoni demaniali. Sull'aumento del servizio ha già detto lei e direi che è abbastanza ormai riconosciuto da tutti. La stragrande maggioranza degli operatori balneari ha lasciato ferme le tariffe. Dico di più, spesso molti di noi, quest'anno in modo particolare, ha avviato prima degli altri anni le loro attività balneari e di conseguenza, per esempio, chi fa gli abbonamenti stagionali si è trovato mediamente dai 15 a 30 giorni in più sull'abbonamento senza spendere un euro in più rispetto a quanto aveva speso. E invece sui canoni? Sui canoni il problema non è che la stangata arrivi in estate, noi ormai è dal 2007 che stiamo combattendo sui canoni, io però vorrei essere estremamente chiaro. Noi abbiamo riconosciuto che i canoni pagati sino al 2006 erano canoni che dovevano essere adeguati in maniera giusta. Di conseguenza non abbiamo posto il problema di non aumentare il canone, abbiamo detto che i canoni devono essere aumentati in maniera equilibrata, di modo che tutte le imprese riescano a stare all'interno di questo canone senza andare a buttare all'aria gli equilibri economici delle imprese o addirittura non riuscire a pagare. Certo, senza andare in rovina, giustamente. Allora, Landi, a lei la parola conclusiva, sì, prima di ringraziarvi e darvi appuntamento ad una prossima puntata che sicuramente non mancherà con voi. I piani di accesso delle regioni, a che punto siamo? Secondo me siamo, mi passi la battuta, in alto mare, ma magari mi corregga lei se sbaglio, Confermo anch'io che quest'anno non siamo di fronte ad aumenti generalizzati come nel passato, e questo è un dato positivo ed è dovuto naturalmente alla crisi, alla recessione, alle difficoltà delle famiglie. Aggiungo anche che le concessioni che vengono pagate allo Stato rappresentano degli aspetti abbastanza minimali, rappresentano qualche giorno di attività dello stabilimento, quindi non si deve drammatizzare questo discorso dei canoni o prenderlo a giustificativo per aumenti eccetera eccetera, perché non è così, erano irrisori. Altro ragionamento importante: è chiaro che se uno va in uno stabilimento ha un servizio in più ed è giusto che lo paghi. Io per primo, come dire, sono favorevole che tutti i servizi che uno riceve debbano avere, come dire, un corrispettivo. C'è un altro problema importante che riguarda il rapporto spiagge privatizzate e spiagge libere. Questo è un altro problema rilevantissimo, perché molti comuni hanno fatto un'operazione selvaggia di privatizzazione delle spiagge e questo non può essere accettato. Assolutamente. Io dico a tutti quei cittadini che vedono le spiagge, come dire, quelle più significative privatizzate, di contestare, perché quel comune, quel sindaco non sta rispettando la legge. La legge dice che ci deve essere un equilibrio, e quindi io dico almeno metà delle spiagge deve essere una spiaggia libera. E sono d'accordo con lei, un invito che faccio anche io ai radioascoltatori e ai cittadini, siamo tutti appunto cittadini di questo Stato, facciamo valere i nostri diritti. Ringrazio Landi, ringrazio Borgo per i loro interventi, grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.